raccolgo i miei pensieri in solitudine. Ho dovuto a volte perdere, ma mi sono rialzata e tutto è già più nitido e stabile. Di quegli attimi, incontrarti per doverci poi dividere, non ammetto non più replica, la materia si è dissolta in una nuvola che vola via. Che ci avvolge nella falsità.